Natale. Stava per arrivare il Natale. La casetta di legno era quasi sepolta dalla neve che si era depositata a mucchi contro le pareti e le finestre. Quando una mattina papà aprì la porta, trovò una parete di neve quasi più alta di Laura. Allora andò a prendere la pala e cominciò a spalare, poi liberò il sentiero che conduceva alla stalla dove i cavalli e le mucche se ne stavano comodi e caldi al loro posto. Le giornate erano chiare e luminose. Laura e Mary stavano in piedi su due sedie alla finestra. Fuori la neve e gli alberi scintillavano. La neve si era ammucchiata sui rami neri e spogli e sfavillava la luce del sole. I ghiaccioli pendevano dalle grondaie della casa, dritti verso lo strato di neve. Erano grandi e grossi come un braccio di Laura. Sembravano di vetro, pieni di luce e scintillanti. Il respiro del babbo rimase sospeso nell'aria come fumo. Quando camminò lungo il sentiero al ritorno dalla stalla, si lasciò dietro una nuvoletta d'alito che ghiacciava e la brina si depositò sui suoi baffi e sulla sua barba. Appena entrato, sbatté gli stivali per liberarli dalla neve e afferrò Laura con un abbraccio degno di un orso, stringendola contro il suo freddo, grande cappotto. I suoi baffi erano imperlati da minuscole gocce di brina e stava cominciando a sgelare. Ogni sera papà aveva il suo da fare, lavorava intorno a un grande asse e altre due più piccole. Con il suo coltello le intagliò, le sfregò con la carta vetrata e col palmo della mano finché diventarono lisce e quando Laura le toccò le parvero levigate come seta. Intagliò poi i contorni della grande asse, ottenendo delle creste e delle torri, e incise una grande stella in cima. Fece dei piccoli fori nel legno e modellò i fori a forma di finestre e minuscole stelle, lune crescenti e anelli. Tutto intorno cesellò foglioline, fiori e uccelli. In una delle due assi più piccole modellò delle graziose ondulazioni. In prossimità dei bordi incise foglie, fiori e stelle, e nel mezzo lune crescenti e intrecci ornamentali. Attorno agli orli delle tavole più piccole intagliò delle minuscole piante rampicanti. I truccioli erano sottili. Papà lavorava lentamente, con molta attenzione. Qualsiasi cosa facesse, doveva riuscire bene. Finalmente i pezzi furono rifiniti e una sera li montò insieme. Quando terminò di lavorare, l'asse più grande era meravigliosamente intagliata all'estremità e sarebbe diventata uno scaffale con alla sommità la grande stella. Anche i pezzi più piccoli che reggevano lo scaffale erano tutti intagliati e le piante rampicanti correvano tutti intorno ai bordi. Papà aveva costruito una mensola per donarla alla mamma il giorno di Natale. La agganciò accuratamente alla parete di legno tra le finestre e la mamma vi sistemò sopra una statuina. La statuina aveva il copricapo di porcellana e i riccioli le inghirlandavano il collo. Il suo vestito, sempre di porcellana, era abbottonato davanti. Sopra indossava un grembiulino rosa pallido e calzava scarpine dorate. Faceva una gran bella figura sullo scaffale, assieme ai fiori, gli uccelli e le lune cesellate tutti intorno e la grande stella alla sommità. Mamma fu indaffarata tutto il giorno per cucinare i piatti di Natale. Preparò al forno pane bianco, pane nero di segale, gallette croccanti, un'enorme padella di fave, carne di maiale e melassa, torte di diversi tipi e riempì anche un grande vaso di biscotti e permise che Laura e Mary ripulissero con la lingua il cucchiaio che era servito per preparare le torte. Una mattina, prima di Natale, fece bollire insieme zucchero e melassa finché divennero uno sciroppo denso. Papà prese due padelle piene di neve bianca e pulita. Una la diede a Laura e l'altra a Mary. Poi i genitori spiegarono alle figlie come versare lo sciroppo in piccole quantità nella neve. Fecero cerchi, intrecci e scarabocchi che diventarono duri all'istante, erano squisiti. A Laura e Mary fu permesso di mangiarne un pezzetto per una. Gli altri pezzi dovevano essere conservati per il giorno di Natale. Tutti questi preparativi erano stati studiati perché zia Eliza, zio Peter e i cugini Peter, Alice e Ella sarebbero venuti a trascorrere il giorno di Natale con loro. Arrivarono alla vigilia. Laura e Mary sentivano i campanelli della slitta tintinnare, farsi sempre più distinti. Grande e grossa, la slitta emerse dai boschi per dirigersi verso il cancello. C'erano zia Eliza, zio Peter e i cugini, tutti ben riparati, avvolti in coperte, mantelli e pelli di bufalo. Erano talmente coperti di abiti e imbacuccati di scialli e sciarpe che sembravano tanti grossi, informi fagotti. Appena entrarono, la casa si affollò. C'era tutto un viavai. Black Susan, la gattina, scappò, rifugiandosi nella stalla, mentre Jack saltava in circolo nella neve e abbaiava. Sembrava che non volesse più smettere. C'erano dei bambini che avrebbero giocato con lui. Appena zia Eliza ebbe sfilato loro gli abiti pesanti, Peter, Alice, Ella, con Laura e Mary cominciarono a correre e schiamazzare. Infine, zia Eliza raccomandò loro di starsene quieti. Allora Alice disse: "Vi dirò io che cosa possiamo fare. Giochiamo a fare le figure." Alice proseguì dicendo che dovevano andare fuori per farle. La mamma pensò che la temperatura era troppo rigida per lasciare uscire Laura, ma appena si accorse di come era dispiaciuta la bambina, concluse che poteva andare almeno per un po'. Infilò a Laura il cappotto, i guanti e la mantella calda col cappuccio, le avvolse una sciarpa al collo e finalmente la lasciò uscire. Laura non si era mai divertita tanto. Tutta la mattina giocò nella neve con Alice, Ella, Peter e Mary. Facevano le figure. Ecco in cosa consistevano queste figure. Ognuno saliva su un ceppo d'albero, poi allargava le braccia ed un tratto si lasciava cadere nella neve soffice e profonda. Bisognava cadere di faccia e cercare di tirarsi su senza danneggiare l'impronta provocata con la caduta. Se questa riusciva bene, rimanevano nella neve cinque impronte pressoché identiche alle quattro ragazzine e al ragazzo, con braccia, gambe e tutto il resto. Le chiamavano le loro figure. Giocarono con tanto entusiasmo tutto il giorno e quando si fece sera erano troppo eccitati per andare a letto. Ma dovevano dormire, altrimenti Babbo Natale non sarebbe passato. Così appesero le loro calze al camino, dissero le preghiere e andarono a coricarsi. Alice, Ella, Mary e Laura stavano tutte insieme in un grande letto sul pavimento. Peter dormiva nel lettino a rotelle, zia Eliza e zio Peter avrebbero dormito nel letto matrimoniale. Un altro letto in soffitta era riservato alla mamma e al papà. Le pelli di bufalo e tutte le coperte che c'erano nella slitta vennero portate dentro. C'era di che coprirsi per tutti. Papà, mamma, zia Eliza e lo zio Peter erano vicino al fuoco a chiacchierare. Laura stava quasi per addormentarsi quando sentì che lo zio diceva: "Eliza l'ha scampata bella l'altro giorno. Io ero lontano a Città del Lago. Conoscete Prince, il mio cane, quello grosso?" Laura si svegliò completamente. Era sempre curiosa di sentire storie di cani. Se ne stava ferma come un topolino, osservando lo scintillio del fuoco che si rifletteva lungo le pareti di legno e ascoltando intanto lo zio. Allora, disse lo zio, Eliza partì presto di mattina, diretta alla sorgente per riempire un secchio d'acqua, e Prince le andava dietro. Era arrivata in prossimità della gola, dove il sentiero scende verso la sorgente, quando a un tratto Prince le prese il lembo della gonna tra i denti e cominciò a tirarla. Sapete quanto è grosso il cane? Eliza lo sgridò, ma lui non voleva lasciarla andare ed era così grande e forte che lei non riusciva a staccarsi. Prince continuò ad abbaiare e a tirare finché le strappò un pezzo della gonna. Era quella blu che mi ero fatta io, disse zia Eliza alla mamma. Oddio, esclamò la mamma. Mi aveva strappato un bel pezzo giusto sul di dietro, aggiunse la zia. Ero talmente arrabbiata che avrei voluto frustarlo, ma lui continuava a ringhiarmi contro. Prince che ringhiava? Disse il babbo. Sì, rispose zia Eliza. Poi lei riprese a camminare in direzione della sorgente, proseguì lo zio, ma Prince saltava sul sentiero davanti a lei e le ringhiava contro. Il cane non dava retta ai rimproveri né alle parole, le mostrava i denti e ringhiava, e quando lei tentò di scostarlo, le si parò di fronte per azzannarla. Lei si spaventò. Lo credo proprio, esclamò la mamma. Era così inferocito che stavo pensando volesse mordermi per davvero, disse la zia. Credo che ne sarebbe stato proprio capace. Non ho mai sentito una cosa simile, disse la mamma. E tu che cosa hai fatto? Tornai immediatamente indietro a casa dove c'erano i bambini e sbarrai la porta. rispose zia Eliza. Prince era diventato più pericoloso di un cane randagio, disse lo zio. Ma era sempre stato affettuoso con Eliza e con i bambini. Io mi sentivo perfettamente sicuro quando li lasciavo con lui. Eliza proprio non riusciva a capire. Non appena lei fu entrata in casa, il cane prese a girare intorno e ad abbaiare. Ogni volta che Eliza tentava di aprire la porta, lui le saltava contro e ringhiava. Era impazzito? Chiese la mamma. Lo pensavo anch'io, rispose zia Eliza, e non sapevo che cosa fare. Ero chiusa in casa con i bambini e non osavo uscire, eravamo anche senza acqua. Non potevo prendere nemmeno la neve e farla sciogliere. Ogni volta che aprivo la porta sembrava che Prince volesse farmi a pezzi. E per quanto andò avanti questa storia? Domandò il babbo. Tutto il giorno, fino al tardo pomeriggio, disse zia Eliza. Peter aveva con sé il fucile, altrimenti gli avrei sparato. Verso sera, continuò lo zio, ritornò calmo e si sdraiò davanti alla porta. Eliza pensava che si fosse addormentato e le venne in mente di scivoliargli sopra e andare alla sorgente a prendere un po' d'acqua. Allora aprì la porta, piano piano, ma naturalmente il cane si svegliò all'istante. Quando vide che lei aveva il secchio d'acqua in mano, si alzò e prese a trotterellarle davanti verso la sorgente, proprio come se tutto fosse tornato normale. E là, tutti intorno alla sorgente, c'erano tracce fresche di una pantera. Erano grandi quanto la mia mano, disse zia Eliza. Sì, aggiunse lo zio Peter, proprio una grossa pantera. Erano le impronte più grandi che avessi mai visto. Avrebbe di sicuro sbranato Eliza se Prince l'avesse lasciata andare alla sorgente in mattinata. Ho guardato bene le impronte. La belva doveva essersi sistemata sulla grande quercia a tendere l'agguato a qualche animale che fosse venuto a bere. Inutile dire che gli sarebbe balzata addosso. Stava calando la sera quando Eliza vide le impronte. Non perse un solo istante e ritornò a casa col secchio d'acqua. Prince la seguiva da vicino, guardando di tanto in tanto verso la gola. Lo portai in casa con me, disse zia Eliza, e rimanemmo tutti dentro finché non tornò Peter. Sei riuscito a prenderla? Domandò papà allo zio. No, rispose lo zio. Presi il fucile e andai a caccia nei dintorni, ma non riuscii a trovarla. Vidi però molte sue impronte. Era diretta a nord, lontano, verso i grandi boschi. Ora, Alice, Ella e Mary erano completamente sveglie. Laura ficcò la testa sotto le coperte e sussurrò ad Alice: Mamma mia, non hai avuto paura? Alice bisbigliò immediatamente che si era spaventata, ma che anche ella lo era. Ella lo bisbigliò che non si era affatto spaventata, niente la spaventava. Però hai fatto una gran confusione per via della sete, sussurrò Alice. Rimasero a bisbigliare finché la mamma disse: Charles, questi bambini non si addormenteranno mai se tu non suoni qualcosa. E così papà prese il violino. La stanza era calda e tranquilla, illuminata dalla luce del fuoco. Le ombre di mamma, di zia Eliza e di zio Peter, provocate dai guizzi delle fiamme, erano lunghe e tremolanti sulla parete. Il violino di papà suonava allegramente, suonava canzoni come La giumenta rossa o Il sogno del diavolo e altre melodie. E Laura si addormentò mentre il violino suonava in compagnia della voce di papà. La mattina dopo si svegliarono quasi nel medesimo momento. I bambini cercarono le loro calze e videro che contenevano qualcosa. Babbo Natale era passato. Alice, Ella e Laura, nelle loro camicie da notte di flanella, e Peter nel suo camiciotto, correvano strepitando per vedere che cosa aveva portato. In ogni calza c'era un paio di guanti rossi fiammanti e una lunga bacchetta completamente rivestita di menta piperita e di zucchero bianco e rosso, tutta intagliata lungo i lati. Erano felici al punto che non riuscivano a dire nemmeno una parola. Guardavano con occhi scintillanti quei fantastici regali di Natale. Ma la più felice era Laura. Laura aveva ricevuto in dono una bambola di pezza. Era una bambola deliziosa, aveva il viso di stoffa bianca e per occhi due bottoni neri. Le sopracciglia erano state dipinte con una matita nera e le guance e le labbra erano rosse di inchiostro di bacche. I suoi capelli erano dei fili neri fissati tra loro e riccioluti. Aveva delle piccole calze rosse e delle minuscole ghette di stoffa nera da mettere sopra le scarpe, e il suo vestito era di un elegante cotone blu e rosa. Era talmente bella che Laura rimase senza parole. Se la teneva stretta e pareva aver dimenticato ogni altra cosa. Non si accorse che tutti la stavano osservando finché zia Eliza disse: "Avete mai visto occhi così sgranati?" Le altre bambine non erano gelose del fatto che Laura aveva, oltre ai guanti e ai dolci, anche la bambola, perché Laura era la più piccolina, ad eccezione della piccolissima Carrie e della bambina di zia Eliza, Dolly Varden. Ma loro erano troppo piccole anche per le bambole. Erano talmente piccole che non sapevano nemmeno chi era Babbo Natale. Riuscivano a stento a infilarsi le dita in bocca e si dimenavano per tutta quella confusione. Laura si sedette sul bordo del letto, stringendo la sua bambola. Era contenta per i guanti, contenta per i dolci, ma soprattutto felice per la sua bambola. La chiamò Charlotte. Poi ciascuno mostrò agli altri i guanti e provò i propri. Peter diede un gran morso al suo bastoncino di zucchero, ma Alice, Ella, Mary e Laura preferirono leccare il proprio per farlo durare più a lungo. Bene, bene, bene, disse zio Peter. Non c'è nemmeno una calza che al posto di dolci abbia una frusta? Dunque siete stati tutti buoni? Ma i bambini non credevano che Babbo Natale potesse veramente portar loro solo una frusta. E niente altro. Cose del genere forse capitavano ad altri bambini, non certo a loro. Era così difficile comportarsi bene giorno dopo giorno per un anno intero. Non tormentare i bambini, Peter, rispose zia Eliza. La mamma disse: Laura, lascia che le altre bambine tengano un po' la tua bambola. Voleva dire, le bambine piccole non devono essere egoiste. Così Laura permise che Mary prendesse la sua meravigliosa bambola e poi che Alice la tenesse un minutino, infine che anche ella la prendesse in mano. Accarezzarono il grazioso vestitino e ammirarono le calze di flanella rossa, le ghette, i capelli di lana riccioluta. Ma Laura fu contenta, finalmente, quando Charlotte ritornò al sicuro tra le sue braccia. Il babbo e lo zio ricevettero ognuno un paio di nuovi guanti caldi, lavorati a maglia e con dei piccoli quadratini bianchi e rossi. Erano stati fatti dalla mamma e da zia Eliza. Zia Eliza aveva portato alla mamma una grande mela rossa decorata internamente con chiodi di garofano. Come profumava! Non si sarebbe guastata, dato che le spezie l'avrebbero mantenuta sana e fragrante. Mamma donò a zia Eliza un minuscolo portachi che lei stessa aveva confezionato con dei pezzettini di seta per i ditali e della soffice flanella bianca nella quale conficcare gli aghi. La flanella avrebbe protetto gli aghi dalla ruggine. Ammirarono tutti la bella mensola della mamma e zia Eliza disse che zio Peter gliene aveva fatta una anche lui, naturalmente con decorazioni differenti. Babbo Natale non aveva portato niente di tutto quel che avevano ricevuto. Babbo Natale non porta regali agli adulti, ma non perché questi non siano stati buoni. Il babbo e la mamma erano buoni, il fatto è che erano cresciuti. E i grandi devono scambiarsi i doni l'un l'altro. Poi, in un baleno, i regali furono messi da parte. Peter uscì col babbo e con lo zio Peter per fare qualche lavoretto, mentre Alice ed Ella aiutavano zia Eliza a sistemare i letti. Laura e Mary apparecchiarono la tavola, mentre la mamma preparava la colazione. C'erano delle frittelle a forma di pupazzo per tutti i bambini. La mamma invitò tutti a portare il loro piatto e ognuna poteva stare accanto alla stufa a guardare. Con una cucchiaiata di pastella, la mamma modellava le braccia, le gambe e la testa del pupazzo. Era emozionante veder girare quell'omino sopra e sotto in una teglia bollente. Quando era pronto, la mamma lo posava fumante e caldo in un piatto. Peter mangiò subito la testa del pupazzo, mentre Alice, Ella, Mary e Laura mangiarono il loro lentamente, a piccoli morsi, prima le braccia e le gambe, poi il corpo. Lasciarono la testa per ultima. Quel giorno faceva tanto freddo che non si poteva andare a giocare fuori, ma c'erano i nuovi guanti da ammirare e i dolci da sbocconcellare. Sedettero tutti insieme sul pavimento a guardare le immagini della Bibbia e le illustrazioni di tutti i cuccioli di animali e di uccelli nel grande libro verde di papà. Laura teneva sempre Charlotte tra le braccia. Poi ci fu il pranzo di Natale Alice, Ella, Peter, Mary e Laura non dissero una sola parola a tavola. Sapevano che i bambini sono belli da ammirare ma non da ascoltare. Inoltre non avevano bisogno di domandare una seconda porzione. La mamma e zia Eliza avevano riempito i loro piatti e lasciavano che mangiassero tutte le cose buone che avevano sotto mano. Natale arriva una sola volta all'anno, disse zia Eliza. Si pranzò presto perché zia Eliza, zio Peter e i cugini avevano tanta strada da fare. Anche se i cavalli faranno del loro meglio, disse lo zio, difficilmente arriveremo a casa prima che faccia buio. Così, appena pranzato, zio Peter e papà andarono ad attaccare i cavalli alla slitta, mentre la mamma e zia Eliza imbacuccavano i cugini. Infilarono pesanti calze di lana sopra altre calze di lana e sopra le scarpe. Infilarono i guanti, i cappotti, i cappucci caldi dei mantelli, avvolsero il collo nelle sciarpe e coprirono il viso con spessi strati di lana. La mamma fece scivolare delle patate bollenti nelle loro tasche per tenere calde le dita e i ferri da stiro della zia Eliza furono posti sulla stufa, pronti per essere messi nella slitta vicino ai loro piedi. Anche le coperte, le trapunte e le pelli di bufalo furono riscaldate. Così presero tutti posto sulla grande slitta, caldi e comodi, e papà sistemò per bene l'ultima coperta attorno a loro. Ciao, ciao, ciao! Gridarono e partirono, mentre i cavalli si mettevano allegramente a trottare e la sonagliera della slitta mandava note argentine. E in un baleno il suono vivace delle campanelle si era allontanato e il Natale era ormai passato. Ma che Natale felice era stato!